Il punto di Stefano Folli. Il Partito Democratico si è infilato in una situazione molto scomoda, quasi assente dal dibattito sulle cose da fare, in compenso è finito nelle sabbie mobili di una incomprensibile e infinita discussione sulle regole interne, il modo con cui sarà organizzato il futuro congresso. Non proprio un tema che sta a cuore agli italiani. Il peggio è che questa discussione rischia di essere distruttiva, con tutti i capi corrente contro Matteo Renzi e quest'ultimo fuori dalla porta a lamentarsi dei capi corrente. Addirittura si evoca la scissione. Difficile immaginare una linea più autolesionistica, nella quale peraltro hanno torto un po' tutti, il vecchio gruppo dirigente che si sta arroccando contro l'usurpatore, ma anche il sindaco di Firenze, Renzi, che continua a lamentarsi senza mai scendere davvero in campo e sfidare i suoi avversari. In questo modo anche la sua leadership potenziale sta evaporando, ancor prima che cominci la partita.